forse siamo angeli con un'ala soltanto e dobbiamo rimanere abbracciati se vogliamo volare. Forse questa vita no, non potrà mai spiegare cosa sogna il sole quando va a dormire nei tuoi occhi. E dovunque andrai, lo sai, ti soffierò sul cuore per riscaldare i colori di questo immenso bene. Come la neve vedrai, ti soffierò sul cuore come un bambino cammino stringendo la tua mano. Forse siamo angeli con un'ala soltanto e dobbiamo rimanere abbracciati se vogliamo volare. Forse qualche stella sì mi potrà raccontare cosa pensa al tramonto quando ti accarezza il sorriso. Dovunque andrai, lo sai.